l'ho comprato da Pinto e le scarpe lì a Cavour, qua c'è. Era una camata, era una bomba male, usciva molto, molto bene. E invece non stavo riprovando, capito? Musicasse che sono sensazionali. Vediamo un po'. Già intorno non è molto avanti, è importante, già 5, 4 anzi, quasi 5. Modulati arriva a 7, 8, parlandoci. Io ne ho molti di watt, era una radio da 4 watt, 3 watt e mezzo, 4 watt, ma come modulatore, come ricezione, se avete in tasca parecchi. Però venite, mi risolvermi. Thank you. sono passato un po'. Thank you. perché lì sopra non mi piace, infatti voglio comprare la vernice sua dello stesso colore, farlo bene e poi verniciarlo, perché davanti al frontalino non è malvagio, è a posto. Verniciarlo perché non è tanto un po'... c'è dei punti di ruggine, avete capito? Sì, anche questo io l'ho smontato il microfono, a vedere l'uomo che c'aveva dentro, un bel grosso il coso. Solo l'unica cosa non riesco a farlo andare, è bello acceso perché il violetto, c'ha gli Smith, c'ha l'orologio. Posto, bello, bello. Ho pagato, su. Bello. Ma lì, Gigi, no, mi prendi. Gigi, a te sto cambiando palacchino, sto... Va. Positivo, positivo. più 4. Sempre quello, Capì. Come vi ascolto io senza attaccare la colonia esterna. Beh, sì, ma già... Io lo faccio, già lo faccio. Lo faccio così, lo prendo un altro, io ne ho anche altri. E quelli vecchi, capito? Ne ho anche a microcornetta, figurati. Con telefono, microcornetta. Cornetta, microcornetta, si chiama telefono, quindi... E funziona molto bene. Non c'è problema. Positivo, positivo. Allora, ne avevo capitato a me pure che lo sentivo dalla come si chiama? E poi avevo regalato quel baracchino lì. Uno vecchio ne aveva e si sentiva nel microfono lì. E diciamo l'autoparlante si sentiva nel microfono, hai capito? Di quelli lì, non c'è problema. Perché se no parlando e qualche microfono, e ci devo mettere nella cassetta, sto lasciando quello, solamente quella roba che hanno però qua, dai. Ben positivo. Io comunque va bene. Non mi ricordo, non mi ricordo l'altra, non mi ricordo l'altra ancora, non c'è nessun problema. Positivo, positivo. Sì, sì. No, c'ho quell'altro, cos'è, il presidente che non va bene. La devo portare a vedere, ma... perché non mi passa più solo nel canale normale, ma non mi fa più non mi sposta più i mezzi canali, è entrata tutta un'altra funzione, capito? Al posto di è entrata tutta un'altra funzione. Quindi si mette la verticalizzazione. lascia lì e tu sei a posto. Infatti ti volevo lasciare l'ultima circa, sono di casa, vediamo se comincio. Vengo. Avanti. Qui non ci siamo. Non la pena. Non arrivava, che non si sentiva qua, non arrivava, ho detto, ma io l'ho data c'è la Luca qua, il Flacco, che fa detto piazza, così almeno se, se fa qualche chiacchierata, qualche cosa, almeno si sente, riusciamo a ascoltarla. Capito? Era volato anche questa antenna, quella pumera che stai dicendo tu, Claudia. Ma quando la live c'è, hai qualcuno mai visto forse questo, c'era il mattino, però quando non l'avevo usato più me l'ha restituito. Questo qui l'avevo prestato a Pino, lui quando non l'ha più usato me l'ha ridato. Quindi non mi posso staccare, perché mi fate male. discorso famoso che abbiamo fatto tempo fa, capito? E quindi niente, ho visto le persone lottate qua di Sassari, persone qua di Sassari lottate come prima arrivata a pizzatrici, e allora mi sono sempre dedicati in pari, capito? Perché mi sto girando ancora, non c'entro più. Libero, io ci ho qua. 2, dall'altra parte 9 ci sono le alimentazioni del PC, della televisione, che anche con la televisione deve essere separato. Uno che non faccia scarica le portate, che non faccia niente, e carico di nulla, capito? Sì, ma è lontano il baracchino da uno all'altro. E la presa è, cioè, da qua arriva a capo, poi io ho fatto una destra e una sinistra, e ci ho messo le prese da una parte di uno e le prese dall'altra dell'altro. Perfetto, ma la metà è presa una presa unica. Poi se lei vuoi fare un'altra cosa, alimentazione, il carico tu l'hai preso da una presa e poi te l'hai portato da un'altra parte. Positivo, quello sì, io ho una prolunga per arrivare qua, una prolunga grossa, capito? Poi da qua c'ho una derivazione all'entrata dove c'ho il tasto della luce e me la mandate nell'altra presa. Perché il carico l'ho preso tutto dall'alimentazione, quindi la corrente arriva tutta in quel carico di presa, e poi anche se te lo attribuisci con un'altra cosa che non c'è a rispondere, perché se prendo un carico da una e lo stai dando ad altre due prese, quindi automaticamente non hai più il 220 netto, non hai il 210, 208, capito? Io c'ho proprio un carico per solo gli alimentatori delle radio, da una parete, dall'altra parete, quindi un'altra linea che arriva dall'altra parte, con un carico per i PC. Addirittura ho un carico anche per i faletti che illuminano il piano di lavoro. Lì c'è ancora un altro carico, perché ne ho quattro prese, capito? Ma sono tutte quattro suddivise. Due che arrivano dalla cavalletta del salone, la linea quindi dei salvavita, e due che arrivano dalla parte dove c'è il bagno, l'altra strada e il tornato con le luci. Positivo, ho capito. Io mi devo mettere un coso, uno A, e poi diramare direttamente una a destra e una a sinistra, e si conferma, e si conferma. La parata ci vuole l'ultima e faccia anche quella. Tanto se si prende, quindi puoi fare, puoi fare. Bello, vedi, cazzo la porra, ma niente. No, sto portando l'audio là. Sta tornando, vediamo un po'. Ma con giù da... Allora, benissimo, ieri ti ha preso il malato di nuovo. E lo sai, che vedi le mani sempre. Poi, vediamo un attimo la cassa di nuovo, no, guarda, vabbè. Ci sono i cani, no? Piacciamoci nome, io vado bene. Se qualcuno vuole entrare avanti sui canali 10, cambio. E niente, ascolta, ci sentiamo casomai più tardi, io devo entrare a casa a rimanere un po' con i compianti. Allora, ci sentiamo più tardi. Adesso chiudo e buon divertimento. Come ho già potuto riparare, se penso vuoi mi chiuso io. Negativo, no, stavo ascoltando, ma però non c'è problema. Ascolta, io chiudo per il momento, dopo quando sono andato via richiamo, ok? Ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao, poi ci vediamo e ci telefoniamo e vediamo di risolvere quello che fare. Tu intanto dirgli se possiamo farlo con l'amore, poi mi fa sapere, capito? Per un momento vogliamo raggiungere io. Ok, va bene, no, le dico, intanto ti dico, guarda, intanto vado a mettere una tappa della ringhiera dello stenditoio con una tappa, forse, e mettere un'antenna a fianco a... niente, al muro. Ma tutti dobbiamo mettere un'antenna per ricevere i dati tuoi, capito? Lì è quello che dobbiamo fare. Ma sotto le scatole ogni tanto mi sparisce la voce dei pettigrani. No, non è nulla da fare, dai, sei pronta. Come ti sparisce la voce? Perché sto uscendo io, sì. Sì, tu sì, ma è questo che ogni tanto mi sparisce, vorrebbe essere lo spinotto di dietro. La colonnina. Esattamente, mi dice ogni tanto sparisce la voce dalla colonnina. Sicuramente sì, va bene. Lascia andare tra le frasi e a salutare il Tonino a tutti. Ci sentiamo dopo. No, cos'è che mi stavi dicendo? Tu parli di quello, io? Ecco, ti lascio andare, salutami a tutti lì, a Torino. vabbè, e io ci sentiamo più tardi. Allora, ciao, ciao a tutti. Siamo qua e ci facciamo qualche parte, non è un po' ci vuole da altre parti, ma da altre parti ci vuole che c'è genere da altre parti. Ma ci vuole da mezzodì, quando ci invece avete l'ultima notte che la due esci da Tavaglia, ho preso proprio il viaggio di Cappallo Marchi. Poi con la sua esigua scrivi questo. pressione. Faccio vedere, devi fare, mi devo aspettare perché diciamo con internet non fa il va diretto, va più letto. Poi c'è stata connessione, va la grande, fa prima che. Mi stai riconvertendo, ma sempre, di continuo. Quindi,